GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Aspirante guida alpina di Maniago muore in montagna a 43 anni, travolto da una frana, la storia di una famiglia segnata dai lutti. Il ricordo di Umberto Bossi per il presidente Massimiliano Fedriga ha cambiato la politica, per il senatore Mario Pittoni è stato decisivo anche per la regione. Due casi di dengue a Trieste, uno a Gradisca. Suci comunica che sono stati riscontrati nei giorni scorsi in persone rientrate da viaggi all'estero in zone considerate endemiche che non sono correlabili tra loro. Nuovi fondi all'artigianato tipico e agli apparecchi dentali per bambini, l'impatto della guerra, la giunta regionale convoca le categorie economiche. La diffamazione via social è perseguibile e le sanzioni sono sempre più severe, si rischia la reclusione fino a 3 anni o multe. In bici al lavoro, l'azienda sanitaria di Pordenone e la FIAB promuovono l'uso della bici per i dipendenti, l'iniziativa per ridurre gli spostamenti non essenziali in automobile. Calcio, l'Udinese spugna Marassi e batte il Genoa per 2-0 con i gol di Ekelenkamp e Davis. In Serie C la Triestina sfiora la vittoria a Trento, ma viene raggiunta dai locali allo scadere dopo essere stata in vantaggio di 2 gol. Biathlon, penultima fatica di Coppa del Mondo per Lisa Vittozzi. La sappadina sarà impegnata quest'oggi nell'inseguimento femminile di 10 km sulle nevi norvegesi di Oslo. Le 7:19:30, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Lara Zani, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 21 marzo, primo giorno di primavera. Subito uno sguardo alla situazione meteo, il cielo in prevalenza nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 6, a Trieste 8 gradi, a Gorizia 4, a Udine 5, a Pordenone 5 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo e Forni di Sopra 2 gradi, a Tarvisio meno 2, a Sappada meno 3 gradi. Sul Monte Zoncolan meno 2 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari meno 3 gradi, a Lignano 8 gradi e a Grado 8 gradi e mezzo. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Al mattino variabile, in giornata cielo in prevalenza nuvoloso. Sulla zona montana dal pomeriggio e soprattutto in serata e nella notte successiva saranno possibili piogge sparse, deboli o moderate e nevicate oltre 800-1000 metri. Sulla costa in serata probabilmente riprenderà a soffiare bora moderata. In apertura dunque la cronaca con la tragedia sul Monte Bianco in cui ha perso la vita lo sci alpinista Carlo Chiodini, 43 anni, originario di Maniago, residente a Pieve di Cadore. Durante il corso organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia è rimasto gravemente ferito un altro alpinista. L'episodio è accaduto sul versante francese del Monte Bianco. Un sogno spezzato a 3.400 metri sul Monte Bianco, quello di Carlo Chiodini, 43 anni, originario di Maniago. Pochi mesi sarebbe diventato guida alpina. L'amore per la montagna lo aveva maturato sin da piccolo a Pieve di Cadore dai nonni materni. Lì aveva poi scelto di risiedere, dividendosi con il Lazio dove abitava l'amato figlio. Per lui aveva scelto di cambiare vita lasciando la carriera nel settore navale che lo portava spesso lontano in giro per il mondo. Una famiglia segnata dai lutti. Entrambi i genitori di Carlo avevano perso i rispettivi coniugi in prime nozze in 2 distinti incidenti stradali. La madre Carolina era titolare di una nota ottica in città. Il padre Giancarlo è uno stimato ex dirigente, prima in Zanussi e poi nel gruppo Benetton, una vicina di casa. Siamo amici da sempre. Mi dispiace tanto. Il sindaco di Maniago, Umberto Scarabello. Esprimiamo loro il nostro cordoglio e le più nostre e più sentite condoglianze in questo momento veramente tragico e di grande dolore. Chi lo conosce lo descrive brillante negli studi e nel lavoro, attento e rispettoso in montagna, ma è per la sua onestà e integrità che lo ricorda il padre Giancarlo. Lui ha rinunciato al successo economico perché i suoi valori non erano il denaro, ma era la sua etica, la sua sensibilità. Maniago, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 2 incidenti nella notte in provincia di Pordenone. Poco dopo le 2:40 sull'A28 fra Zano Decimo e Chions, i vigili del fuoco sono intervenuti per un'uscita di strada autonoma. La vettura ha colpito un contenitore ai bordi dell'autostrada e si è ribaltata. Il conducente è uscito autonomamente dall'abitacolo ma è stato poi elitrasportato all'ospedale di Udine. Alla stessa ora un'altra auto è uscita di strada finendo contro un albero a Caneva. Anche in questo caso il conducente è uscito da solo dal veicolo. Due casi di febbre dengue sono stati segnalati in questi giorni. giorni a Trieste e uno in fase di accertamento a Gradisca di Sonzo, tutti in persone rientrate dall'estero in zone considerate endemiche, dunque non correlabili fra loro. Lo comunica Asugi, come da piano regionale è stato effettuato quanto di competenza ai fini della sorveglianza, della prevenzione e del controllo dei casi umani di dengue. Visto il contesto stagionale, non sarà effettuato il controllo stagionale dei vettori, solitamente indicato nel periodo di maggiore attività delle zanzare, ovvero durante la stagione estiva e all'inizio dell'autunno. Dopo la scomparsa del fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, sono arrivati i commenti di chi in Friuli Venezia Giulia lo ha conosciuto o ha fatto politica con lui. È entrato nella Lega con Umberto Bossi e a Pontida domenica per il funerale del fondatore del Carroccio ci sarà anche lui, Massimiliano Fedriga, assieme al portavoce Petizziol. Da Varese, dove ha partecipato a un convegno sulla salute, il presidente della regione ha detto che il Senatur lascia un'eredità a tutto il paese. Prima di Umberto Bossi non veniva tenuto in considerazione per nulla il concetto di autonomia, di territori, di valorizzazione delle comunità che vivono in questi territori. Ha cambiato radicalmente la politica e quindi l'eredità che noi siamo orgogliosi di portare avanti come Lega, ma è un'eredità che vale per l'Italia e questo spero gli sia riconosciuto da tutti, perché voglio ricordare che lui ha iniziato da solo, ha iniziato credendo in un ideale e ha concluso credendo in un ideale. Nella scorsa legislatura, seduto dietro Bossi a Palazzo Madama, c'era il senatore Mario Pittoni, responsabile istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura. Lui aveva l'abitudine, tra l'altro, di salutarti con un pugno alla mano con cui manifestava la forza anche fisica di cui disponeva ancora. Per Pittoni, tra i lasciti di Bossi alla regione, il finanziamento del sistema universitario che premia Atenei come quello di Udine e la restituzione del castello del capoluogo friulano alla città dopo un lungo iter d'acquisizione. Lui voleva invertire il rapporto tra il centro e la periferia, voleva un sistema federale. Il progetto originario prevedeva tre leghe, Lega Nord, Lega Centro e Lega Sud. Più conflittuale il rapporto con Bossi per l'ex deputato e senatore Roberto Visentin, fondatore della Lega Nord in Friuli Venezia Giulia, per il quale l'attuale partito ha tradito i principi di quello delle origini. La Lega di quella volta era la somma delle diversità, che poi con la Padania è finito perché è diventata un'altra cosa, un'invenzione più grande di quella che voleva combattere, cioè l'Italia. La deputata Dem, Deborah Serracchiani, riconosce la statura dell'avversario che, dice, ha impresso un segno duraturo nel panorama politico e istituzionale italiano. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. La giunta regionale convoca le parti sociali per fare il punto sulla crisi energetica. Dall'esecutivo anche un intervento a favore dell'artigianato di qualità e uno per assicurare cure ortodontiche anche ai giovani pazienti delle fasce deboli. La giunta regionale ha convocato le categorie economiche per monitorare quale sia l'impatto delle crisi energetiche legate alle tensioni internazionali sulle imprese del territorio e per ragionare su strumenti concreti di tutela a fronte di questi scenari di instabilità e incertezza. Al tavolo, nella sede udinese della regione, sono invitate le associazioni di categoria, i sindacati e i rappresentanti del settore di produzione, trasporto e vendita di idrocarburi. L'incontro è fissato per giovedì prossimo alle 10:30. L'annuncio è arrivato a margine di una conferenza stampa dedicata ad un nuovo canale di contributi sull'artigianato tipico, uno strumento dotato di un budget iniziale di 300.000 euro per il 2026 per sostenere settori come la pietra artistica, la lavorazione del legno e dell'arredo tradizionale, il ferro battuto, la liuteria, i tessuti, i ricami, la pelletteria e le trasformazioni agroalimentari tradizionali. E dalla riunione di giunta di oggi anche un finanziamento da 735.000 euro al Burlo Garofalo di Trieste per sostenere l'accesso alle cure e agli apparecchi ortodontici anche ai bambini e ai ragazzi in condizione di vulnerabilità sociale e a rischio povertà. Le prestazioni sono garantite fino al compimento dei 14 anni di età e saranno gratuite per le famiglie con ISEE fino a 10.000 euro. Con un ISEE tra 10.000 e 20.000 euro i costi saranno di 75 euro a semestre, mentre gli apparecchi saranno a carico della famiglia. La franchigia per le cure a carico delle famiglie sale poi fino a 350 euro al semestre per le fasce di reddito superiori fino a 50.000 euro. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani, domenica 22 marzo e lunedì 23, si terrà il referendum confermativo della legge costituzionale norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. In Friuli Venezia Giulia gli elettori sono 931.731, suddivisi in 1.354 sezioni, 104.519 quelli della provincia di Gorizia, 237.069 per Pordenone, 177.087 per Trieste e 413.056 per Udine. Il dato comprende gli elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia, in tutto 17. Sono invece 449 gli elettori temporaneamente all'estero che voteranno per corrispondenza. Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle 16 di oggi. La votazione si svolgerà domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale, con almeno uno spazio vuoto dei 18 previsti per la certificazione del voto o l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera e un documento di riconoscimento per l'identificazione. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, si procederà allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie, che precederà quello relativo alle elezioni politiche supplettive, ove presenti, che non riguardano però il Friuli Venezia Giulia. In occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di Down, Fondazione Down Friuli Venezia Giulia, che nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nel supporto alle persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva, sviluppando progetti che mettono al centro la vita indipendente, promuove un incontro di aggiornamento dedicato ai temi medico-sanitari legati alla disabilità intellettiva, rivolto a famiglie, caregiver e operatori. L'obiettivo è quello di creare uno spazio di confronto e informazione che aiuti a comprendere meglio gli aspetti legati alla salute delle persone con sindrome di Down e più in generale delle persone con disabilità intellettiva. Relatori saranno Sandro Morassut, già presidente della Fondazione Down Friuli Venezia Giulia, che approfondirà gli aspetti medici, e Sonia Cogo, che parlerà della consulenza infermieristica nei progetti di vita indipendente, alla Casa dello Studente di Pordenone alle 10. Sandro Morassut ci ha illustrato quali sono gli aspetti medici di cui occorre tenere conto nell'assistenza alle persone con sindrome di Down. Le persone con la sindrome di Down non hanno malattie diverse rispetto alla popolazione generale e alle persone della loro età. Però molto spesso alcune di queste malattie si manifestano con sintomi un po' accentuati, per esempio quelle dell'apparato respiratorio, perché ci sono più secrezioni, c'è più tosse e così via. E un altro problema è il fatto che tante volte, se hanno dei problemi medici, se hanno dei disturbi, dei sintomi, non sono in grado di esprimerli in maniera corretta, tali da essere facilmente interpretati dal personale che gli sta vicino. Quindi bisogna educare anche sia le famiglie sia gli operatori ad essere attenti a certi problemi, perché tante volte si fa fatica a coglierli. Un altro tema di cui poi bisogna tenere conto è il fatto che anche per le persone con sindrome di Down si è allungata la vita. Si è allungata parecchio, anche perché vengono attualmente curate come tutte le altre persone, e questo in Italia è un fatto molto rilevante, anche superiore ad altri paesi avanzati. Quindi pensiamo che l'età media sia intorno ai 62 anni di sopravvivenza. Questo fa sì che, accanto alle malattie che si possono riscontrare nell'infanzia, adesso possiamo trovare anche delle malattie che si riscontrano nell'età avanzata. E uno degli elementi importanti è il fatto che è dimostrato che le persone con sindrome di Down, dopo i 50 anni, parecchi hanno un decadimento intellettivo piuttosto rapido e marcato. Azzurra Malattie Rare ETS ODV sarà presente alla 26ª edizione della Mostra Mercato negli spazi allestiti in Viale 20 Settembre. Da oggi al 29 marzo, coloro che visiteranno gli stand potranno compiere un gesto di solidarietà acquistando le speciali confezioni contenenti creazioni esclusive di cioccolato artigianale finissimo, facendo così un'offerta in favore di Azzurra, associazione Malattie Rare ETS ODV, che opera all'Istituto Materno Infantile Burlo Garofalo di Trieste. Un aiuto prezioso che permetterà l'acquisto di macchinari per i piccoli pazienti e di offrire supporto e sollievo alle famiglie. È in programma oggi a Trieste la presentazione dell'Associazione Quadratini in Carità, che dal 2021 in Italia segue ogni giorno migliaia di ammalati gravi. Protagonista sarà Don Eugenio Nembrini, fondatore dell'associazione, accompagnato dal presidente Riccardo Melotti. Alle 20 nella Chiesa di Gesù Divino Operaio in via Benussi, dopo la messa delle 19 in videocollegamento con centinaia di ammalati, con la partecipazione del Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi. Torniamo alla cronaca. Nel corso degli ultimi mesi il Comando Provinciale di Udine della Guardia di Finanza ha intensificato l'attività di monitoraggio dei trasporti di prodotti petroliferi provenienti da paesi dell'Unione Europea ma anche extra UE, con l'obiettivo di contrastare l'introduzione sul territorio nazionale di idrocarburi in evasione delle accise e dell'IVA. Gli automezzi controllati che sono stati posti sotto sequestro erano dotati di documenti che attestavano il trasporto di olio lubrificante. Mediante l'utilizzo di spettrofotometro a infrarossi in dotazione ai reparti si è scoperto che i prodotti erano assimilabili a benzina o gasolio, entrambi idonei all'autotrazione e quindi introdotti di contrabbando sul territorio nazionale. Le Fiamme Gialle di Udine, di Tolmezzo e Tarvisio hanno sequestrato quasi 428.000 litri di idrocarburi, evasi 1.130.000 euro di accise e 510.000 euro di IVA. Parliamo ora delle conseguenze dei commenti sui social, che spesso vengono sottovalutate. L'analisi di un esperto che parte da quanto accaduto a Muggia, dove il Comune ha denunciato 16 persone per le loro offese nei confronti dei servizi sociali dopo l'omicidio del piccolo Giovanni. Insulti, minacce, social che si trasformano nell'arena dove si può condannare in modo sommario, perché è terra di nessuno. Non è così, comportamenti sempre più diffusi. L'ultima denuncia è del Comune di Muggia nei confronti di 16 persone per i commenti diffamatori e offensivi, così definiti, sui servizi sociali. Vicenda relativa all'omicidio del piccolo Giovanni. La diffamazione sui social network è un reato, articolo 595 del Codice Penale, che scatta quando si offende la reputazione altrui parlando con più persone. La Cassazione, spiega l'avvocato Costoris, inquadra quella via social come diffamazione aggravata. Ci sono a Milano e Roma ormai sorti degli studi legali specializzati esclusivamente nel settore diffamazione a mezzo stampa, a mezzo social, via social. E i risarcimenti che vengono richiesti sono risarcimenti non modesti, parliamo di 2.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro, con una scala che varia in base alla gravità e alla reiterazione degli episodi diffamatori. La diffamazione è ingiuriare, offendere una persona non presente di fronte ad altre persone. Per cui se tu ricevi una offesa sui social e rispondi immediatamente, la giurisprudenza considera che tu eri presente. Ed essendo presente non è una diffamazione ma è un'ingiuria. Se invece tu non rispondi, riesci a trattenere l'istinto di digitare qualche risposta in tempo reale e magari dici io l'ho vista 24 ore dopo, 12 ore dopo, indifferente, allora quella è diffamazione ed è perseguibile. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. È in programma in questo weekend la quinta edizione di Uniti per la sicurezza stradale, sapere è meglio che improvvisare, un'iniziativa dedicata alla sicurezza stradale che coinvolgerà diversi enti con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e famiglie sull'importanza di comportamenti responsabili e consapevoli sulla strada. La Polizia Locale di Trieste sarà presente oggi e domani sia al mattino che al pomeriggio al secondo piano del centro commerciale Torri d'Europa e proporrà temi fondamentali come il rispetto delle regole, l'uso corretto dei dispositivi di sicurezza e l'importanza di una guida prudente. Verrà anche allestito un campo scuola bike dedicato ai bambini, dove i più piccoli potranno imparare le basi della circolazione stradale in bicicletta. E al lavoro in bicicletta è proprio un progetto nato dalla collaborazione tra l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale e FIAB per promuovere la mobilità sostenibile. Ieri a Pordenone una colazione offerta ai dipendenti sulle due ruote. Lei da dove è venuto? Da San Quirino. Iniziativa interessante anche perché comunque coniuga sia il movimento e anche dà una mano all'ambiente. Si ha l'opportunità insomma un attimino di fare un po' di movimento e in qualche maniera di approcciarsi al lavoro in maniera un po' più distesa insomma, anche al ritorno quando si termina l'attività lavorativa. I volontari e le volontarie della FIAB hanno accolto i dipendenti dell'azienda sanitaria di Pordenone che sono arrivati al lavoro in bicicletta. L'iniziativa Bike to Asfo per la prima settimana settimana di primavera, cui hanno aderito 110 persone nelle 7 sedi aziendali, è parte di un progetto avviato 2 anni fa e coronato con l'installazione di nuovi stalli per le 2 ruote. Patrizia Belletti di FIAB Pordenone. 2 anni fa Asfo ci ha proposto questo progetto di Bike to Work, e che prevede l'utilizzo della bicicletta per i dipendenti che si recano al lavoro. Tutta la settimana abbiamo accolto i dipendenti che si recavano al lavoro e che hanno utilizzato i nuovi stalli per le biciclette a Pordenone, a San Vito, a Sacile, a Maniago Spilimbergo e presso la Cittadella della Salute. Jessica Sorrentini del Dipartimento di Prevenzione ASFO. È nostra intenzione continuare la collaborazione con FIAB, infatti nella seconda metà dell'anno vorremmo riuscire a conseguire la certificazione di azienda bike friendly e vorremmo ripetere un'iniziativa simile a settembre in occasione della settimana della mobilità sostenibile. Accoglieremo, oltre a chi viene a lavoro in bicicletta, anche chi si reca a lavoro a piedi o utilizzando i mezzi pubblici. Lei viene sempre in bicicletta a lavorare o ha approfittato della colazione? No, vengo sempre, anche quando piove spesso, quindi sono un'abitué della bici. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Emanuele Aldrovandi, drammaturgo, regista e scrittore, è il nuovo consulente artistico per la sezione prosa del Teatro Verdi di Pordenone. A seguito della naturale scadenza dell'attuale incarico, la sua nomina è stata presentata ieri dal presidente del Verdi, Giovanni Lessio, che ha sottolineato come questa scelta si inserisca in una fase di rinnovamento strategico per il teatro, che intende rafforzare il suo ruolo di centro propulsore di progettualità culturale e come luogo di relazione attiva con il territorio. La LAV, Lega Antivivisezione, sarà presente in via Direttoria a Trieste oggi dalle 10 alle 18 per raccogliere le firme per la petizione nazionale rivolta a regioni e governo, volta a chiedere un'IVA giusta su cibo e spese veterinarie e per rafforzare i servizi di veterinaria sociale. In Italia oltre il 40% delle famiglie vive con almeno un animale, eppure oggi la cura di cani e gatti è ancora fiscalmente trattata come un bene di lusso con l'IVA al 22%. Porte aperte all'Università di Trieste, 3.600 studenti e studentesse delle scuole superiori hanno partecipato all'evento di orientamento dedicato alle presentazioni dei corsi di laurea e dei dipartimenti, prima di compiere la scelta del percorso universitario. Tra 3 mesi avranno la maturità e tra 6 diventeranno matricole. Giorno di porte aperte all'Università di Trieste per tentare di reclutare gli indecisi con un evento di orientamento. Un'opportunità per gli studenti delle scuole superiori della regione del vicino Veneto che non hanno ancora scelto che strada intraprendere. Gli incontri però sono la conclusione di un processo più lungo che parte da lontano. Elisabetta Matiz, delegata Università di Trieste per l'orientamento. Per maturare delle scelte consapevoli in termini della propria formazione o nei termini di un investimento futuro professionale, non possiamo sperimentare un tempo che è queste 3 ore qui o che sono altre ore nella sede di ottobre, ma significa essere accompagnati per tempo attraverso un lavoro che è proprio quello di predisposizione di percorsi in cui si fa conoscenza di sé. In 3.600 hanno affollato l'Ateneo Giuliano, non solo per le presentazioni dei corsi in Aula Magna, ma soprattutto per le chiacchiere tra pari nei banchetti informativi con chi qualche anno fa era nella stessa situazione. Da studente a studente, quali sono i dubbi e le perplessità dei ragazzi per tutto ciò che non riguarda soltanto il loro percorso curriculare? Sulla sede universitaria, se Trieste è una città universitaria, se ci sono eventi la sera organizzati anche dall'università, dalle liste. Sì, sono molto interessati alla vita qua in Ateneo, ma anche in generale in città. Riesco a vedere il campus, riesco a vedere le persone che ci sono, è sicuramente un bell'ambiente che si crea. La bellezza anche della città sicuramente, cioè sono rimasta estasiata al girarmi dopo che sono arrivata in cima alle scale. I genitori, che spesso accompagnano i ragazzi, cercano sicurezze. All'Ateneo chiedo che riescano in qualche maniera a estrapolare il meglio dai ragazzi, perché hanno molte aspettative ed è un peccato lasciarle perdere. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alle 7.41 minuti apriamo la pagina dello sport con il calcio. Colpo dell'Udinese che batte il Genoa 2-0 fuori casa con Heckelenkamp e Davis. Nervi tesi anche per la protesta dei padroni di casa. Tolto il rigore per il tocco di mano di Cabasele quando il risultato era ancora di parità. I bianconeri tornano così a vincere realizzando le uniche 2 occasioni della partita. Genoa dominante per tre quarti di partita con l'Udinese a guardare, ma i tre punti li incassano i friulani con una gara in crescendo. Scherzi del calcio, nel primo tempo frenano il vantaggio del Grifone due clamorose traverse, Malinowski su punizione, una meravigliosa conclusione volante di Colombo e due incredibili errori di Vitigna, uno addirittura a porta vuota. Udinese graziata, così anche nella ripresa quando il VAR richiama l'arbitro dopo l'assegnazione di un rigore per un mani di Cabasele. Okoye ci mette i guantoni in un paio d'occasioni fino a che al minuto 21 della ripresa non salgono in cattedra i bianconeri. Pennellata di Zaniolo in area e Kellenkamp svetta anticipando un incerto Bailo. 1-0 a sorpresa. Pressione del Genoa, tanti cambi, agonismo e cartellini. Udinese che resiste, cresce in pieno recupero, colpisce una seconda volta. Contropiede di Davis che di prepotenza firma il suo decimo gol stagionale, quello che suggella la vittoria friulana. Da Genova per la TGR Friuli Venezia Giulia, Diego Carmignani. In Serie C la Triestina sfiora la vittoria e pareggia con il Trento per 2-2, risultato amaro perché gli elabardati già retrocessi erano in vantaggio sul 2-0, ma i padroni di casa hanno ribaltato la situazione proprio negli ultimi minuti. Il primo intervento del portiere Matosevic arriva solo al 21esimo per un destro dall'interno dell'area di Pellegrini, sul quale il portiere si fa trovare pronto di piede. Nei successivi 5 minuti i padroni di casa colpiscono prima una traversa con Capone, trovando poi l'intervento decisivo dell'estremo alabardato a tu per tu con Ladisa. In chiusura di tempo gli alabardati capitalizzano al meglio una bella giocata sulla sinistra di D'Urso, chiusa da un colpo di testa vincente di Fagioli sul primo palo e andando così a riposo in vantaggio. Il Trento cerca di ripartire all'attacco in avvio di ripresa, ma dopo un destro fuori giri di Ladisa sono ancora gli ospiti a trovare il bersaglio grosso con il pressing di Voca al limite dell'area che offre al mancino rasoterra di Vertainen il raddoppio. Poco dopo alla Triestina viene annullato per questione di centimetri il Trisa opera di Fagioli. A 12 minuti dal termine i padroni di casa con una fiammata trovano la deviazione vincente a centro area di Ebone su cross dalla sinistra di Chinetti. L'episodio rianima i gialloblu che sfiorano il pari con Ebone a 5 minuti dal termine. In pieno recupero su azione d'angolo in mischia i padroni di casa trovano il pari con un tocco sotto porta di Trainotti che appoggia in rete un colpo di testa di Chinetti. Fossati a ridosso del triplice fischio impegna ancora Matosevic che salva il pari. Finisce 2-2 con la squadra di Marino ultima e già retrocessa a quota 6. Biathlon, penultima fatica in Coppa del Mondo per Lisa Vittozzi. La sappadina sarà impegnata quest'oggi nell'inseguimento femminile di 10 km sulle nevi norvegesi di Oslo. Lisa partirà col pettorale 2 con 5 secondi di ritardo rispetto alla vincitrice della sprint femminile di giovedì, la svedese Hanna Öberg. La carabiniera, che sta passando un ottimo stato di forma in questo scorcio finale di stagione, ha quindi altissime probabilità di salire sul gradino più alto del podio. Inizio della prova alle 13.45. Per la nostra regione, oltre alla Vittozzi, c'è Nicola Romanin di Fornia Voltri, che partirà con il pettorale 54. La gara maschile prenderà il via alle 16.15. Una giornata per immergersi nel mondo del design e dell'arte, per scoprire e conoscere i corsi, i docenti e gli studenti dell'Accademia. Torna l'appuntamento con gli Open Day di ABA Udine dalle 9.30 su prenotazione. Ci illustra le opportunità di questa giornata Serena Selva, vice direttrice dell'Accademia. Oggi dalle 9.30 gli studenti e anche tutte le famiglie e gli accompagnatori potranno conoscere l'Accademia e quindi vedere tutti gli spazi, poter anche svolgere quelli che noi chiamiamo gli ABA trial, o quindi delle esercitazioni sia per quel che riguarda grafica che design interni, che pittura con anche illustrazione fumetto, e anche per quel che riguarda il tatuaggio artistico. Inoltre potranno anche partecipare alle presentazioni dove viene spiegato tutto il piano di studi dei nostri corsi e anche le varie modalità per iscriversi. E i corsi quali sono? I corsi sono dei corsi triennali riconosciuti, che sono in graphic design per l'impresa, con tutti i vari indirizzi come brand design, grafica per l'editoria e visual e motion design, design di prodotto e architettura di interni, pittura con le varie specializzazioni anche in fotografia, illustrazione e fumetto, ed inoltre abbiamo il corso di tatuaggio artistico, tutto in doppia lingua, sia in italiano che in inglese. Rassegna stampa. Alle 7.46 minuti apriamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Alta tensione in giunta regionale, litigio tra Fedriga e Scocimarro, scontro nella giunta sugli eco asciugamani. Il governatore boccia la proposta bollandola come mancia elettorale. L'assessore di Fratelli d'Italia parla di dimissione, poi stempera, solo un confronto. Cure dentistiche per under 14 al Burlo sono gratis o scontate. Primi rincari sulla spesa, supermercati in Friuli Venezia Giulia, prezzi in salita per frutta e verdura, corsa al pieno dopo il taglio delle accise. L'addio all'operaio acrobata Tommy lassù prima di noi, folla e commozione nella chiesa di San Giovanni per l'addio a Tommaso Andreuzza, l'operaio triestino deceduto in un incidente sul lavoro mentre si trovava sul tetto dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Fine Ramadan a San Luigi, 2000 islamici in preghiera, da Trieste l'appello alla pace, purtroppo ora è una festa a metà. ITS in mostra gli abiti delle star, la moda sconfina nell'arte, prime visite al quarto piano di via Casa di Risparmio 10. Primi rincari sulla spesa è il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine. Dopo diesel e benzina, monitoraggio dell'effetto guerra sugli scaffali dei supermercati in regione. In Medio Oriente sì di Londra all'uso delle basi per proteggere Hormuz. Truppe NATO via dall'Iraq, Trump codardi, pronti Marines e navi da guerra. Intanto a Ugovizza carburante truccato stoppa i carichi in arrivo da est. Ancora cronaca, mercurio nei capelli dei lavoratori del porto, succede fra Marano e San Giorgio. Nella fotonotizia centrale udinese un venerdì d'oro steso il Genoa a Marassi. Di piede un annuncio, domani a Udine lezioni di storia e poi Lignano va di corsa, ombrelloni gratis, prima di Pasqua. L'apertura delle pagine di cronaca cittadina è dedicata all'ex ospedale psichiatrico. Via libera al recupero dei primi due padiglioni, approvato il progetto da 10 milioni. Ora si attende la valutazione delle belle arti. Un'area diventerà luogo della memoria, l'altra ospiterà il centro di salute mentale. Ucciso dai sassi, siamo distrutti, è invece l'apertura del Gazzettino, tragedia sul Monte Bianco, aspirante guida alpina muore travolto in quota. Il 43enne Carlo Chiodini era di Maniago. Il padre aveva una grande etica, non pensava ai soldi. Lo shock in paese seguiva i suoi sogni, lascia un vuoto. In cronaca colpisce l'arbitro con la borraccia, fermo fino al 2029, la stangata per l'accompagnatore del Cavazzo, l'episodio tra gli under 18. Si parla poi di sicurezza, già 35 rimpatri, la polizia stringe il cerchio. Su guerra e crisi la regione convoca un tavolo, poi fondi PNRR, errori e ritardi, il comune risolve il contratto per i lavori. Nella fotonotizia centrale il calcio di Serie A, l'Udinese spugna Genova, agganciato il decimo posto, sesto successo esterno per i bianconeri. Infine alla tisana il PD raccoglie l'allarme degli anestesisti. Dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia, emergenza casa nell'Isontino, ATER, 243 alloggi da risistemare, arrivano i fondi, 36 milioni di euro. Febbre dengue, tre casi segnalati dalla Sugi, uno a Gradisca. Ramadan, tripletta di feste e preghiere in Bisacaria, Monfalcone a Staranzano, il raduno religioso di migliaia di bengalesi, la solidarietà delle istituzioni. Intervento fuori programma di un operaio che chiede aiuto alla Fincantieri, sarebbe utile, succede all'improvviso, un operaio originario di Dacca si alza, prende il microfono e si rivolge a Fincantieri. Evitato il blitzleghista, Cisinta, Mestre, antimoschea, viene stoppata dalla Digos, l'europarlamentare e consigliera monfalconese non è stata fatta passare dagli agenti. A fondo pagina poi il recupero di Parco Basaglia con un palcoscenico nell'ex chiesetta, i lavori sono addirittura d'arrivo. L'apertura dell'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto è dedicata alla cronaca, muore incordata sul bianco, l'ingegnere Carlo Chiodini, originario di Maniago, aveva 43 anni, fatale un distacco di massi, stava partecipando sul versante francese al corso organizzato dal Collegio Guide Alpine del Friuli Venezia Giulia, un compagno ferito. In cronaca i lavori a Pordenone, negozi in contrada senza luce chiusi per ore, di piede una notizia di teatro, prosa svolta al Verdi, Aldrovandi direttore. Sulla prima pagina del Gazzettino, fotonotizia centrale per la ex fiera, tre mesi in più per il polo della discordia, variante da 700.000 euro. In cronaca, gelosia e minacce, compagno stangato per maltrattamenti, la donna ridimensiona le accuse in aula, il 47enne non evita la condanna, 3 anni e 8 mesi. Accanto l'esito dell'autopsia sull'infortunio con il trattore a Brugnera, trauma toracico fatale, così è morto Medis Corazza. Ad Azzano Decimo furti notturni all'Eco Piazzola, ladri scoperti con il drone, mentre nel capoluogo si parla di Sagra del Sacro Cuore, il ritorno è vicino. Infine frasi razziste in campo, fuori per 8 giornate. A Alcuni appuntamenti di oggi in regione, iscrizioni già chiuse con il raggiungimento del numero massimo di partecipanti per il terzo appuntamento del progetto di impegno pubblico Salute tra Terra e Mare, promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della Salute dell'Università di Trieste, in collaborazione con il Comune. Salute, territorio, prevenzione e informazione saranno i concetti chiave sviluppati nel Parco Farneto o Boschetto. Appuntamento alle 10 al MIB in Largo Caduti di Nassiria, vicino al Parco Ferdinandeo e al Parco di Villa Rivoltella. Apre per la 22ª volta i battenti a Villa Manin di Passariano nel giardino del Doge Manin, la mostra floreale di piante e arredi promossa dall'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale della regione, e coordinata dalla cooperativa sociale triestina agricola Monte San Pantaleone. In occasione della mostra Back to Peace, la guerra vista dai grandi fotografi della Magnum, che racconta il secolo della guerra e della pace attraverso gli sguardi dei più grandi maestri della fotografia mondiale, in corso a Palazzo Attems a Gorizia, è in programma oggi un incontro con Jérôme Cecini, uno dei fotografi più autorevoli a livello internazionale nel campo del fotogiornalismo di guerra e dei conflitti sociali, alle 15 a Borgo Castello 13. Si inaugura oggi una mostra dedicata allo scultore Marcello Mascherini, nato a Udine nel 1906 e attivo a lungo a Trieste, uno dei più autorevoli protagonisti della scultura europea del Novecento. L'esposizione propone un percorso immersivo che intreccia scultura, paesaggio e architettura e sarà visitabile fino al 2 giugno. Alle 11 a Villa De Claricini d'Orpacher di Bottenico di Moimacco. La motostaffetta friulana, in occasione del 25esimo anno di attività, presenta l'iniziativa 25 anni di eventi in Friuli Venezia Giulia visti dalla motostaffetta friulana, un progetto che ripercorre attraverso un libro fotografico alcuni tra i più significativi eventi che negli ultimi 25 anni hanno contribuito a promuovere e valorizzare il Friuli Venezia Giulia, mettendo in luce il ruolo svolto dalla motostaffetta friulana nell'attività di scorta tecnica, sicurezza, volontariato e impegno sociale, con particolare attenzione all'inclusione delle persone con disabilità, alla sicurezza stradale e alla collaborazione con le istituzioni, dalle 10 alle 12 nella sala Pasolini della Regione a Udine. Si concludono con un concerto le manifestazioni indette a Trieste per il Giorno del Ricordo. La parte artistica sarà affidata agli allievi dello storico Istituto Musicale Cittadino. Sarà inoltre l'occasione per riascoltare l'intervento al Parlamento di Toni Concina, esule di Zara che per tutta la vita si è battuto per dare voce e testimonianza a coloro che dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno dovuto abbandonare le loro terre. Sarà inoltre ricordato anche il Beato Bonifacio alle 10.30 al Conservatorio Tartini. Pordenone sale sul palcoscenico nazionale di Linea Verde Italia, il programma di Rai 1 condotto da Nicola Prudente e Monica Caradonna, che esploreranno Pordenone in sella a una bicicletta, scoprendo la musica al Parco San Valentino con l'Accademia Musicale Naonis, mentre al Palazzo del Fumetto si metteranno alla prova come apprendisti fumettisti, oggi su Rai 1 dalle 12.25 alle 13.20. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11.30 con Biblos. Oggi a Villa Claricini d'Orpacher si inaugura Marcello Mascherini Gioia di Vivere. La visitiamo in anteprima con il curatore William Cortes Casarubios. Alle 12 l'appuntamento con i misteri di Casanova. Nasce il culto delle reliquie di Casanova, ma dove si trovano? Lo scrittore e giornalista Alessandro Marzomagno ci aiuta a far luce su questo mistero. Ed ora, prima di chiudere, diamo lettura di un comunicato sindacale Usigrai. Le giornaliste e i giornalisti italiani si asterranno dal lavoro i prossimi 27 marzo e 16 aprile. La Federazione Nazionale della Stampa ha indetto altre due giornate di sciopero per il contratto di lavoro. Siamo l'unica categoria ad attendere il rinnovo da oltre 10 anni, mentre giornaliste e giornalisti precari sono spesso costretti a vivere con retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. C'è un'evidente questione economica e c'è un altrettanto evidente tema di autorevolezza e indipendenza dell'informazione. Quello che gli editori vogliono smontare pezzo a pezzo è lo stesso contratto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani. E questa è la saldatura tra le nostre fondamentali rivendicazioni economiche e la libertà di informazione che i cittadini, i lettori, i telespettatori, gli utenti del web devono pretendere per poter essere a loro volta liberi. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Lara Zani e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Pasquale Nocera. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. A tutti voi l'augurio di un buon sabato. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.